16,9 minuti, 22 secondi, 87.9 di Radio Onda Rossa. Si è tornati, è proprio un bel movimento, direi, che si muoveva dietro al vetro. Salutiamo Fedingo con il radioteatro del martedì. E Luccetto, come stai? Siamo tornati! Batteteci le mani, no, non era siamo tornati, però batteteci le mani comunque. Oggi le tre voci che vi accompagnano sono la mia, naturalmente, quella di Luccetto e anche la voce di una compagna che ci ha accompagnato soprattutto per gli spot l'anno scorso. Buon pomeriggio. Ciao. Come stai? Bene. Molto bene. La Raj Kenny Arcana, sigla che ci accompagna ormai da 3 anni. Ci sentiamo tra pochissimo. Choisis rien, qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouquin. La rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. La rage, car combien des nôtres finiront par retourner leur veste. La rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde dès que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs chats OGM stérilisent la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas, nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire, nous s'asseoir. Dorénavant, on s'aimera près parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage. D'y croire et de faire en sorte que ça bouge. La rage d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge, mais de gris ça y s'entoure. Et parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour tant de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. La rage car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage car on prend aux anges et qu'on a choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, les punitions, la rage. Ouais, la rage ou l'essence de la révolution. La rage. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. D'aller jusqu'au bout et toi on veut bien nous mener la vie. La rage. On pourra plus taire, nous s'asseoir. Dorénavant, on s'aimera près parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. D'aller jusqu'au bout et toi on veut bien nous mener la vie. La rage. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage. Quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et toi on veut bien nous mener la vie. La on pourra plus taire, nous s'asseoir, nous rien avance, t'aimes après, parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et toi on veut bien nous mener la vie. La rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain. Inch'Allah. À la veille d'une révolution, mondiale et spirituelle. La rage du peuple, la rage du peuple, l'Arabia del pueblo, pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle la populace et la rage est énorme. Allora, era Kenny Arcana che ci introduceva come ogni martedì dalle 4 alle 5. Direi di introdurre, poi insomma sarà ripetuto più volte durante la trasmissione di oggi, che in realtà oggi è l'ultimo martedì che andiamo in onda, nel senso non che già ce ne andiamo, nel senso no, assolutamente una novità, prima e ultima con volta, nuovo dice. Non solo nuove voci, ma avremo anche nuove date. Purtroppo ci hanno spostato così, purtroppo con la L, sempre. Insomma. Purtroppo per fortuna ci hanno spostato, quindi staremo dalle 5 alle 6, giusto? 5 e un quarto, cioè 17 e 15, 18 e 15 ogni mercoledì per farvi compagnia al ritorno dal lavoro, al ritorno dai collettivi o dalle assemblee o quello che vi pare. Tutti i mercoledì, appunto, per lasciare spazio invece a una trasmissione che ci fa molto piacere che si stia insediando in radio. Tutti i martedì dalle 4 alle 5 ci sarà una realtà molto affine in realtà agli studenti, che è quella dei professori precari, di cui andremo anche a parlare, visto che questo sabato si è tenuta la loro manifestazione nazionale, la prima convocata per la scuola. Quindi un inizio di movimento per la scuola, che continuerà con le nostre bellissime, spero, manifestazioni. Esatto, ci saranno proprio queste bellissime manifestazioni, saranno, diciamo, il punto centrale in realtà della trasmissione di oggi, anche della prossima settimana, quando andremo a sentire le altre città, gli altri studenti di tutta Italia. Ma intanto, per chi ci ascoltasse per la prima volta, perché insomma ci sono sempre i soliti peccatori, no? Che dice Regioner, l'hai mai sentito? No, dice no, non ho mai sentito Regioner. Vabbè, allora vi perdoniamo. Regioner cos'è? La voce degli studenti media auto-organizzati di Roma. Bisogna dirlo velocemente perché è una frase molto lunga. È, diciamo, la trasmissione che riassume tutti gli ideali degli studenti che portano in piazza le loro proteste, che lottano nelle piazze, e perciò, diciamo, raccoglie diversi studenti e studentesse dai diversi collettivi dei licei. E, diciamo, senza farla lunga, la chiuderei anche qui. Come no? Dicevamo, il primo pezzo, mettiamo un po' di musica per smezzare, visto che già sei senza parole, sei così emozionato che non trovi le parole, il povero Matteo. Sì, direi che possiamo cominciare con il primo pezzo. Non so se lo vuoi presentare tu o lo presento io, diciamo, l'onore. Qual è in scaletta il primo pezzo? Non lo so, te lo lancio così, uno qualsiasi. Allora, te lo leggo così com'è, due punto, e poi ti faccio lo spelling. Lo spelling D E E P vabbè, leggilo te, senti, perché io, diciamo, tutto l'alfabeto ancora non l'abbiamo fatto, sai, sempre con la storia dei tagli, la Gelmini, quelle robe là. Allora partiamo subito alla grande con una canzone che è vero rock, cioè Highway Star dei Deep Purple.